Sara. Sì, buongiorno. Avvocato. Sono un avvocato. Oh, finalmente un avvocato. Del Foro di Roma. E devo dire che l'intervento di Alberto Sordi, quel bel pezzo di Alberto Sordi, è molto simpatico, però sinceramente fa sorridere anche noi avvocati. Eh sì, perché tutte le avvocatesse sono da Hedwig Fenech in su, quindi farebbe ancor più sorridere parlare di avvocatesse. Ma io devo dire che è vero che è una classe godereccia, ma forse proprio perché a noi piace anche molto vivere, quindi è una classe spendacciona. Le avvocatesse vengono definite tutte molto belle, ma perché ci piace vestire bene, curarci, a differenza magari di altre categorie come le dottoresse che con il loro camice. Sotto il camice, dottoresse, non si sa. Io sono sempre condizionato dall'immaginario dei filmacci degli anni 70. Anche l'avvocatessa, che devo dire, sotto il rigore della tonaca può scatenarsi con una bollentezza carnale inimmaginabile. Io volevo dire questo, che forse il contatto con la sofferenza, con la reclusione, che fa di voi delle crocerossine dell'amore. Allora, guardi, io in realtà faccio famiglia nel civile e nel penale, quindi indosso la toga, ma spesso e volentieri la tolgo anche per soccorrere situazioni molto tristi familiari che magari coinvolgono minori, bambini che soffrono. Quindi è vero che siamo in contatto con una realtà che poi quando ne usciamo, finito il lavoro, ci porta, ecco, allora magari a preferire una bella cena tra amici, uno spettacolo, un teatro. Ci piace appunto essere contornati da belle cose, forse proprio perché si vive in una situazione sicuramente sempre di tristezza o comunque di un problema. Beh, certo, dall'avvocato si va solo per cose. Posso dire, diciamo, di simpatico, che a me fa sorridere quando mi capita, è vedere questi clienti che ti arrivano con le sentenze stampate, che le prendono da internet.